Io sono un giornalista che vale 250 dollari la settimana. So manovrare notizie grosse e piccole. Se notizie non ci sono, so lavorare di fantasia. 24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma. Uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio. E lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera. Per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca. Il problema alla Sartori. E vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese. I bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Negli ultimi 8 mesi ci sono state 5 elezioni regionali che il nostro partito, il mio partito, ha vinto 5-0. Evidentemente è un segnale per chi governa l'Emilia da 70 anni, ma ripeto, io non passo la mattina a stappare spumante perché ho quadruplicato i voti. Berlusconi non l'ho sentito, anche perché dopo un derby che abbiamo giocato come quello di ieri sera, dove solo il Milan poteva non vincere, era meglio non sentirlo. Che me la sogno, neanche due, tre. La sognavo ancora prima che avvenisse. Tutti vincitori dopo le elezioni, tutti vincitori. Ci manca solo che Berlusconi dica: ma no, dai, è andata benino. Che Grillo dica: no, ma insomma. Tutti vincitori, Renzi aveva vinto 2-0 lunedì e poi si è accorto che ne aveva vinte altre 3 prima e sono diventate 5-0. Invece Salvini dice: cos'è? Ho quadruplicato i voti. Tutti, tutti, tranne noi, attraverso. Allora, sono le 6:31 minuti, questa è 24 mattino, buongiorno anche a tutti voi, Mandateci al 349-238-6666 i vostri messaggi, la vostra vittoria di domenica. Tanto hanno vinto tutti, quindi potete dire: oh mamma mia, i giornali... Basta! Saluto subito Mario Di Nolfi. Mario, buongiorno. È il bianco che abbraccia il nero. Mi sa che abbiamo già una decina di punti di distacco, no? E la media per arrivare a meno 40 a fine stagione la sta tenendo. Fammi vedere un po'. Terzo gol della Juve, show di Pogba, doppietta per lui. Juventus strepitosa all'Olimpico. Allora, 10 punti di vantaggio. Invece ti informo che la Juve è a 31, il Milan a 18. Quindi tutti 13, da giù la media 40, avevo calcolato. La media è 40. Siete già sulla media meno 40. Siamo a 13 punti, sì. Esatto. Che miseria. Stai tranquillo. Dice Margherita Giorgiana: è bello, è molto dolce provare una sconfitta che è definita. Che definitiva. Ma guarda che 13 punti sono recuperabili, sì, lascia ma poi come se giocate come avete giocato domenica, si è fatta insomma. Vabbè, mica troveremo ragazzi, sempre uno che una cosa, Milan-Inter, la partita più brutta della storia, ma io non so come fate a giocare così a pallone. Guarda, ma che il livello del Milan e è questo il livello del Milan, dell'Inter non mi interessa, anzi spero che peggiori ancora. Il livello del Milan è questo. Zapata, Poli, De Sciglio, questo cuore alla Inzaghi, Mixes, questo qui, il cuore alla Inzaghi sempre come l'ascoli di Costantino Rossi. Questo è la mitico, non mi toccare Costantino Rossi. No, infatti è un complimento, ma c'è quello. Allora, fatevi salutare Lorenzo Nespoli in redazione e Peter Bescapè in regia. Apriamo il Parlamento, perché tra l'altro saluto ovviamente anche il grandissimo sulle parole che suonano di Maria Elena Boschi, Vincino, lui e il suo Palermo invece veleggiano. Va bene, ha pareggiato col Genoa, che era una squadra. Hanno giocato ieri, avete pareggiato? Oh, guarda che il Genoa è forte. Lo so che è forte. 1-1 e vince a Dybala, avete Dybala. Hanno perdonato Moggi, anzi stanno facendo la statua del ringraziamento. Alla Juve hanno perdonato Moggi, sì. Quindi vuol dire che ruberanno altri 5-6 scudetti. Senti un po', Marione, io pensavo di provocare la reazione di Adinolfi, che però vedi è silente, dice, quindi vuol dire Moggi non è che deve essere perdonato, Moggi non deve essere perdonato, deve essere ringraziato. Perdona uno che ha fatto qualcosa. Ora voglio dire, questa la twittiamo subito, subito, per favore. Twittala subito. Metti dentro anche l'account dell'Inter, per favore. Mettilo, Moggi va subito. Moggi non va perdonato, va ringraziato. Si perdona Moggi chi ha fatto qualcosa. Che stava lì a fronteggiare valanghe di quattrini di Moratti e di Berlusconi, e nonostante questo, gli ha sempre messa come steppa in quel posto. A Torino erano dei poveracci, però no, attenzione, fermi tutti. C'è il casino. Allora, Vincino, caro Mario Adinolfi, che è qui, ha fatto una cosa qualche giorno fa, va detta, Mario, perché ci devi raccontare come... Sai cosa ha fatto, caro Vincino? Sai cosa ha fatto? Dopo che settimana scorsa qui ha detto che lui manda le dediche col suo libro alle ragazze col cellulare, e dopo che Rossella Brescia gli ha scritto mi mandi il libro, sai che ha fatto lui? Eccolo, ma senza cellulare, lui ha detto eccolo qui il cellulare, l'ha messo su Twitter. Marione Adinolfi ha messo il suo cellulare su Twitter, ma consapevolmente ha detto eccolo qui, 334, e poi vabbè, continua. L'ha messo. E che è successo, Marione, da quel momento? Ho scritto quello che ho scritto tra parenti: da questo momento non camperò più. Infatti, quante telefonate ricevi? Ogni quanto ti chiama? Chi ti chiama? Tante si dicevano 200 al giorno, ma il problema è quelli che cominciano dalle 2:30 di notte alle 6:30 del mattino. Mica mi hai svegliato te oggi, sa? Ecco, ti ha svegliato un matto. Che ti ha detto? Aliscione, affronto! Capito? Una di quelle sveglie che tutti vorremmo avere. Chi non ha una sveglia così? Mi chiamano con lo sconosciuto, col numero sconosciuto. Io pensavo fossi te, capito? Allora te ho risposto, ormai neanche risposto. Ridimmi, che ti ha detto? Aliscione, affronto! Vincino, questo è, ha messo il cellulare su comunque Twitter. Fatemi dire, il numero è 334 37 98 534. Chi vuole può insomma continuare con questo florileggio, ma è molto divertente, perché per me è come avere Radio Radicale a casa, insomma, ti dà questo spaccato di Italia. Aspetta che non ce lo siamo segnati bene. 334 37 98 534. L'obiettivo è svuotare la segreteria telefonica di Milano. Esatto, telefonatemi direttamente. Telefonate al 334 37 98 534, risponde Mario Adinolfi. Ora non chiamatelo, che l'ho trovato occupato. Ora è occupato perché sta con noi. Vabbè, comunque, che dobbiamo fare? Vicino, il tuo cellulare qual è? No. Il mio cellulare, te lo do subito, aspetta un secondo, c'ho quello. Manco lo sai. No, uno normale, che è questo che sto parlando, sì. E quindi non lo riesco a trovare il numero, quello è chiuso per la delinquenza. Ho capito, ma sei sicuro di volerlo dare, Vicino? Paolo, Vicino, ti ti cambierà la vita, fallo, ti cambia la vita. Lo farà. Appena lo trovo il numero lo appena, faccio, lo metto appena trova il numero lo farà, va bene. Non allora. Vale, lui lo mette su Twitter, non c'hai follow, io ho 66.800 sì. follow. Sì, e poi, la, e poi lo ha pure ritwittato Rossella Brescia che ne ha 300 e rotti mila, quindi no, sei spacciato, sei spacciato. Soltanto 6.800. Vabbè, ma chi se ne frega, adesso siamo qua a farlo chi ce l'ha più lungo con i follower. Vabbè, giornali ovviamente noiosissimi, tranne che per Mario Adinolfi, ci sono 15 pagine per quotidiano, tutte uguali su Matteo ha vinto, l'altro Matteo ha vinto, Silvio ha perso e Beppe ha perso, cioè Grillo. Ma è stata meravigliosa, PG Battista, sì. Stefano Folli, che ieri facevano l'analisi sull'astensionismo, tutti perché uguali, la CGIL, sì, perché, sì. Ma di che? Semplicemente non c'è più plot, non c'è più storia, c'è un imperatore, gli altri non esistono, la gente tocca dare ragione ad Adinolfi, Vincino, tocca dare ragione ad Adinolfi. Oggi ho letto un titolo, c'è il nulla e Renzi, e la gente vota, cioè Renzi se non fa neanche a votare, sta salendo Salvini che non è sta salendo Salvini che... ma che robetta ma no, ma come che roba, ma che robetta Salvini, dai, una cosa così residuale, prendere Salvini a 15-80. Ha proposto la flat tax, guarda, ha proposto la flat tax al 15%. Poi ricordati, vicino, poi vanno al governo e la flat tax da non ce la fanno, capito? Lo dicono in campagna elettorale, poi quelli hanno governato 20 anni, non è che non hanno governato, sì, ma non hanno fatto la flat tax. Ho capito, ma adesso non è che Vincino, non è che Vincino è per la Lega, però no, io sono, io come dire, la cavalcata dei Renzi continua, per cui rimetteremo tra una settimana 10 giorni il libro in edicola. No, infatti poi tu puoi fare 15 edizioni della cavalcata, tanto ogni volta è la ricavalcata, la stracavalcata. Assolutamente, aggiungiamo 10-15 pagine ogni 10-15 giorni. Diciamo bene come si chiama questo libro di Vincino. La cavalcata. Si chiama La cavalcata. Oh. Comprate la strenna. Tra 10 giorni il foglio regalerà. Lo regala. Come lo regala? Lo regala, dai, lo metterà un euro, vuol dire, non è che una strenna natalizia. Lo regala. Vabbè, io sentite qui. Comprare 30 copie e regalarle a tutti i miei parenti. smettila, Marione, che ti diamo anche se no il numero di casa. Allora, sentite Salvini, vado in Marocco. In Marocco, che ci fa in Marocco Salvini? Ormai è impazzito. Anche da piccolo leader di un movimento di opposizione, io ad esempio in Marocco ci andrò da qui a breve per cercare di discutere come evitare che la gente parta da là e quanto dobbiamo contribuire, perché non c'è in niente Marocco. Di gratis. Vincino, te lo vedi in Marocco a discutere? Poi in realtà in Marocco c'è però una sua ripresa, come dire, minimamente. Ma tu te lo vedi, Salvini sbarca in Marocco e dice... Ma sulle montagne del Rif, dove fanno il coso, il kif... deve convincerli a non partire, cosa potrà dire per convincerli a non partire? Voi avete l'erba migliore del mondo, dirà i marocchini, perché andare in Europa... Potrebbe essere convincente, Marione potrebbe... Poi a Tagheri, sulle orme di tanti che sono stati là... Mario, vabbè, io adoro questa fase in cui tu puoi andare a fare tutte le fregnacce che vuoi, tanto osserva niente. La fase dell'opposizione è meravigliosa, poi l'opposizione... senza speranza di governo è perfetta. Puoi dire quello che vuoi. Tutte, in Marocco, in Corea del Nord. Poi tutte le premiacce che ti pare, vai in Marocco e ti guardi il Marocco. Perché non è che dici vai lì e stringi i rapporti, relazioni diplomatiche, impediscono tutte cavolate. Ho capito, ma adesso te c'è questa storia, c'è solo Renzi, allora basta, abdichiamo, andiamo via, c'è solo Renzi, tutto Renzi. Prima o poi farà un errore grosso, immagino. Poi succederà, cioè? Finora non l'ho fatto, ma può combinare dei casini, perché poi c'è la crisi economica, ci sono tanti fattori. Il problema è che intercettare l'alternativa di solito a un partito di sinistra si fa con un partito popolare. Vedete, presente che succede in Germania, vincono i democristiani, in Spagna i popolari, in Francia i gollisti, sì. È molto difficile che prendi una formazione rispettabile, ma con problemi di nello stesso giorno in cui Salvini fa il grande risultato in Emilia Romagna, non prende neanche un voto in Calabria. Cioè, c'è questo piccolo Salvini in Calabria, come dire, mi sembra un po'. Allora, sai, se tu vuoi fare vincere le elezioni senza mezzo paese, la ma no, vincere, ma che vince? Ma dai, lui dice. Ho capito, ma dice che mica vuol vincere. Se vogliamo fare il Milan, facciamo il Milan, per carità. Vabbè, insomma, adesso tu sei ingeneroso. Telefonate tutti ad Adinolfi, mi raccomando. 334 37 98 534. Io sono qui per farvi da sfogatori, capito? Vabbè. Sentite Renzi, tra l'altro dice l'affluenza, ma chi se ne frega dell'affluenza, è un dato secondario. Ha ragione, non so se ha ragione. Lui dice che è un dato secondario, Renzi. Il fatto che in elezioni regionali non ci sia stata una grande affluenza lo trovo un elemento che naturalmente deve preoccupare e far riflettere, ma che è sicuramente secondario rispetto al fatto che se ne dica, oggi non è che ci sono tutti hanno perso, non è così. Non è così, vabbè, non è, ma è vicino, hanno vinto. Peraltro ha presentato i due più brutti del mondo, cioè? Il presidente della regione Emilia Romagna, l'hai visto? Ah, Bonaccini. Vabbè, brutto di non c'è. Quell'altro Calabria, ancora più brutto ancora. Peraltro, Oliveri, il lupo. È uno che ha 5 legislature, una vecchia, proprio vecchissima politica, questo parte dal PC, dal Comunale. Calabrese, vecchissima politica calabrese, cioè i peggio del mondo, ecco, no, i peggio del mondo vince. Questa è la cosa. E questo è il dato di fatto. Però attenzione, perché Bersani ha detto hai acceso troppi fuochi. E soprattutto Prodi, questa me la sono segnata. Sapete come ha commentato Prodi? I perdenti della storia pazzesca. No, fermati. No, sapete come ha commentato Prodi? Come ti fai il letto così dormi. Ha commentato così, con questo proverbio, pare siciliano tra l'altro, vicino, un vecchio detto: come ti fai il letto così dormi. E si è addormentato. non lo so, Marione, che vorrà dire Prodi? Facciamo l'esegesi. Ma che vuole dire, ragazzi? Vai che ancora a girare quei microfoni a Villa Arzilla. Ma no, che no, cioè, no, Villa Arzilla, no, no. Con i microfoni a Villa Arzilla non è male. La cosa bella di Matteo è una: Matteo le dice come allora, i politici dell'astensione non gliene frega proprio niente, capisci? Basta che vanno a votare in tre. Ma certo, anzi, meglio, perché sono solo tre da convincere, quindi contano i voti. Allora, si deve sapere che l'astensione è un tema, secondo me, molto interessante, molto, ma per i sociologi, per i politologi, chi vuole fare commenti di politica, lasci perdere il commento sull'astensione, perché poi non ha nessun valore, insomma. Sociologicamente è interessante che un paese che prima le regionali nel 2010 mandava il 70% e sociali al 30%. Però aspetta che dobbiamo riprendere tra un attimo dopo il traffico. Ma mi scrive Claudio, che evidentemente ha salvato già il cellulare di Adinolfi, ha detto: ma su WhatsApp Adinolfi ha messo come stato al lavoro. Ma che lavoro fa Adinolfi? Questo tuo collega non osare. No, tra infatti, colleghi tutela. Questo 21 anni di contributi IMPGI che sono già. Questo lo chiede Claudio, Claudio ha già salvato il tuo cellulare. Non mettere giù, Marione, durante il traffico, se no ti chiamano in 50 e poi non ti richiamo più. Stai lì con noi. 24 mattino. Salvini, è inutile che gridi, è inutile che fai la voce alta. Il tuo posto di lavoro è uno solo, operatore ecologico. I super stipendiati fanno ricorso alla Consulta perché i diritti acquisiti non si toccano. Ecco, io mi domando, visto che il lavoro è un diritto, quando una ditta fallisce, gli operai cosa fanno? Si rivolgono alla Consulta? Ciao signor Milan, buongiorno, che delizia, la voce della signora Boschi. Mi fai un piacere, signor Milan, ti do l'incarico di dare un bosco di baci da parte mia alla signora Boschi. Chi non va a votare non ha torto, e chi non va a votare manifesta un disagio, un qualcosa in cui non può esprimere la propria volontà perché non c'è nessuno che gli dà fiducia. E in una democrazia vale anche chi non va a votare, tant'è vero che la nuova legge elettorale non dovrebbe dare il premio di maggioranza se l'astensionismo supera il 20%. vado in cerca di un po' di paglia per fare qualche mattone, alzerò piramidi come maglia per metterci qualche fregnone. Dei piramidi l'ho alzati tanto, mo sto piene tutte quante. Finito pure i mattoni, non avrei pensato mai che al mondo ci fossero tanti fregnoni. Vabbè, Marione, vuoi dire qualcosa contro le rime baciate dei nostri ascoltatori? Sì, baciate così e così, una metrica un po', anticoagulante. Che c'ha? Hanno ripreso gli psicotici, ecco, questo hanno ricominciato a chiamare. Che c'hai, Vincino? Che c'hai? Che c'hai? No, no, no, c'ho una figlia che sta uscendo per andare a lavorare. Salutacela, vuoi passarcela? Caterina, vieni che ti salutano qua dalla radio. Cate! Arriva. Cate. No, un salutino, diciamo, Caterina. Ecco, aspetta, saluta. Caterina, buongiorno. Oh, buongiorno, Radio 24. Abbiamo disturbato? No. Possiamo continuare? C'è Mario Di Nolfi. Almeno una lavora. Vuoi chiamare Mario Di Nolfi, non poi? Grazie, in realtà. Comunque, adesso papà ti dà il cellulare di Mario Di Nolfi, se poi dopo lo vuoi chiamare quando... Grazie. Va bene? Buona giornata. Ciao, buona giornata, un abbraccio. Buona giornata, Caterina. Buona giornata, grazie. Eccoci qua. Mi fate spezzare la lancia per il traffico. Allora, voi tutti trattate male sto benedetto traffico. Noi che lavoriamo veramente, che ci spostiamo dall'angolo all'altro dell'Italia. Viva il traffico! Sei un maledetto! Viva il traffico! È decisivo per noi che ci spostiamo. Ieri ero a Imola, stasera presento il mio libro a Parma, quindi sto in giro per tutto il tempo e adoro il traffico. Allora noi. È il motivo per cui ascolto Radio 24. Ottimo. Viva il traffico! Amo il traffico come la traversa di El Sharaw. Treno, no. Allora, no, ma non lo so, vabbè. Comunque noi alle 8:45, ti informo, caro Vincino, avremo il sindaco di Livorno, Filippo Nogarini. Quello là, che denuncia i disegnatori. Sì. Ah, stupendo, sì. Guarda, sì, uno come quelli, guarda. Che c'hai? Spieghiamo per tutti, Nogarini, la giunta di Livorno ha deciso di querelare un vignettista perché hanno fatto una vignetta, li hanno rappresentati come dei banditi col malloppo. Ma di quelle normalissime, no? Ma no, come non state che querelano anche te, sì, poi? Ma un giorno sì, un giorno no, io disegno quelli del governo vestiti da ladri che vanno in banca, rapinano e fanno. E quindi che gli devo dire? D'Alema l'ho disegnato 2300 volte così, non è che... appunto, D'Alema. Devi dire che, come dire, lui siccome sta a fare politica, non rompesse le scatole, si prendesse le vignette contro, gliene faccio 10 io subito, insomma, praticamente. Va bene. Va bene. Che deve fare? È così. No, perché poi ha fatto una stronzata, cioè si è preso un assessore che sta in Francia, ogni volta gli deve pagare il rimborso. No, in Francia, a Torino. Vabbè, là, da quelle parti là praticamente. Più o meno, Torino, Francia. Parlavano in francese per un periodo là, Cavour era meglio in francese che in italiano. Vabbè, Marione, dimmi una cosa, che succede, chi è che ha perso di più, Grillo o Berlusconi? Berlusconi è stato il giorno del pensionamento di Berlusconi, quando sei all'8% e persino al 12% in Calabria, lo PDL aveva preso il 26%, è chiaro che non c'è più, insomma, Berlusconi non c'è più. Stai cose ai domiciliari, sta a curare i vecchietti, scusa. Chi vincerà? Lui o Fitto? Vince Salvini, c'è la partita nel centrodestra, vince Salvini. Il problema è che Salvini vincendo il centrodestra rende residuale il centrodestra, e questo è l'elemento non interessante, perché poi dopo lo scontro Salvini-Renzi sarà uno scontro a opzione già decisa, le partite di calcio che hanno già il vincente, cioè quando vedi Juve-Milan sai già come finisce, è inutile a guardi, voglio guardare la partita. Annaggia ragazzi, ma perché mi sono buttato nel calcio? Una notazione. Ieri Gad ha detto che sta iniziando la parabola discendente di Renzi. Gad è uno che ci ha preso sempre. Nel 94 a dicembre l'aveva già detto su Berlusconi. Ripetuto 23 volte. Chiudiamo con la Boschi in inglese. Palette da 0 a 10. Dovete dare il voto alla Boschi, alla voce della Boschi, al suo inglese. Forza! And the government I am a member of is doing the best to proceed as fast as possible on a wide number of reforms.

c'è una morosità fisiologica delle bollette, ma è attorno al 5%. Qual è la scelta vera? È che, d'accordo con Rai, la nostra intenzione è di non trasferire a Rai, in aggiunta al gettito attuale, al trasferimento attuale, l'evasione recuperata, ma di restituirla interamente ai cittadini, diciamo a quelli che fin qui l'hanno pagato. Con uno sconto sul canone, diciamo. Abbassando il canone. Perché si parlava di una cifra sui 60 euro, 63 euro, 65 euro, diciamo oggi è 113 euro. È una cifra plausibile, diciamo tra i 60 e i 70 naturalmente, euro. Siccome vorremmo introdurre anche qualche criterio aggiuntivo di equità, si tratta di vedere, ecco, questo quanto incide. Faccio per farmi capire, già oggi rispetto alla bolletta ci sono situazioni riconosciute e accertate di disagio economico che hanno un forte sconto, un abbattimento. Rimarranno queste, sì. Mi pare ragionevole tenere esenti queste persone o comunque garantire esattamente un trattamento privilegiato rispetto agli altri. Quindi si tratta di tarare il concetto dell'equità. Il punto vero è che pagheremo molto meno. Ecco. Ha visto che tutti i partiti politici... Non c'è bisogno di grandi pensate. Questa è una... è un'idea che non è nuovissima. Se ne parla da anni, però ha visto che adesso tutti i partiti politici sono un po' contrari, parlano di spot, parlano di una decisione così unilaterale del PD. Ma non so dove sta l'unilateralità, anzi per la verità mi pare un'idea che in modo bipartisan hanno provato tutti. Naturalmente ho molto rispetto della forza di persuasione delle lobby che non hanno interesse a questa, all'introduzione di questa. Per esempio, a chi pensa? Chi è che si oppone? Insomma, basta scorrere i giornali, ce ne sono molti. Però noi vogliamo tenere, diciamo così, non è una riforma contro nessuno, è per recuperare l'evasione. Certo, chi evadeva ci rimette, questo è sicuro. Questo è certo. Mi faccia capire però, sottosegretario, se è messa in bolletta vuol dire che non è più legata al possesso della TV ma alla semplice utenza energetica? Diciamo così, la norma oggi sarebbe il possesso del televisore. Sì. Come lei sa bene, è una norma anacronistica, dovremmo cambiarla comunque. Se rimanessi legato a quel concetto, dovrei dire il possesso di un apparecchio televisivo, oppure di un PC, oppure di un tablet, oppure di uno smartphone, oppure di ogni altro device atto a ricevere il segnale. È già difficile, anzi praticamente impossibile, il controllo sul possesso di un apparecchio. Lei si immagina che cosa vuol dire? Vuol dire fare una norma con prescrizioni molto ampie e molto dure, ma sostanzialmente inapplicabile. Sì. In altre parole, prendere in giro e continuare a consentire l'evasione. Quindi noi identifichiamo l'elemento unificante, che è l'alimentazione dei diversi device, e quindi è il contratto di fornitura elettrica. Quindi se io non ho la TV pago comunque, perché se ho l'energia elettrica vuol dire che avrò qualche altro device, insomma. Tendenzialmente sì. Naturalmente, siccome è una norma che ha una sua complessità, gli uffici giuridici stanno studiando esattamente in questi giorni l'esatta riformulazione per evitare di incorrere in possibilità di impugnazione e ricorsi. Però la nostra intenzione è di procedere e avere al Senato questa norma, che mette fine a una situazione francamente intollerabile. Le chiedo questo, sottosegretario, visto che saranno in bolletta, i gestori energetici avranno un rimborso in qualche modo, dovranno rimodulare le bollette, cioè avrete già parlato. Diciamo così, noi abbiamo idea ovviamente di tenere indenni le aziende, quindi i costi delle modifiche del software certamente non saranno a carico delle aziende, però ci sono, diciamo, c'è un complesso di problemi ma anche di vantaggi per chi farà la riscossione. Lei pensi solo, insomma, al cash flow che si determina, alla possibilità di gestione. Quindi dialogheremo con loro, vogliamo tenerli indenni, non è contro nessuno questa riforma. Un punto fondamentale però è capire le seconde e terze case, cioè ogni utenza energetica un canone, quindi se ho due case pago due canoni o no? Questo è uno dei punti su cui ragioniamo. Tendenzialmente l'idea è quella di evitare che chi ha la seconda casa paghi di più di oggi, paghi di però più. Però non è escluso, non è... Ma, diciamo in linea di massima sulla seconda casa è escluso, perché sì. Naturalmente qui si tratta di capire come, il concetto lo dicevo prima, come riusciamo a introdurre una qualche punto d'equità. C'è chi dice che potremmo incrociare i dati del reddito, io sono un po' perplesso su questa possibilità. Quindi metterlo sull'IRPEF, legato all'IRPEF. Legato, graduarlo sull'IRPEF. Sì. Insomma, a me pare molto più complesso, faraginoso e non... l'idea delle seconde case non mi pare un indice di ricchezza, insomma nel nostro paese uno può avere la seconda casa per molti motivi, una piccola cosa ereditata dai genitori, insomma magari quando si comincia ad andare oltre e il patrimonio diventa investimento potrebbe essere quello un punto, però ci stiamo lavorando. E chi ha invece un esercizio commerciale, e quindi casa esercizio commerciale, paga? No, esercizio commerciale dipende da cosa intende, nel senso che già oggi chi fa un uso, diciamo, per il proprio business della TV, cioè o del segnale, non un uso privato, ma ecco, gli hotel piuttosto che i locali per cui ci si trova a vedere la TV, ha già oggi un canone speciale, perché in quel caso non è la fruizione privata, ma esattamente un'attività insomma un'attività economica, e questi continueranno a pagare il canone speciale, mentre per gli altri no. No, vabbè, insomma, comunque. Perché l'idea, vede, qual è il punto? Oggettivamente, in molte realtà, lei pensa a un'azienda normale, non c'è un ufficio di un dirigente che non abbia l'apparecchio TV. Però, se quello che noi scegliamo, come io penso, è esattamente questa strada del canone in bolletta, rispetto all'industria. Inserire un ulteriore elemento d'aggravio incide direttamente sulle questioni del lavoro e sul costo della produzione, quindi qui noi saremo ovviamente orientati ad evitarlo. Anche perché spesso uno nell'azienda magari non vede la TV, ce l'ha lì ma non, insomma, si lavora, ecco, non... No, questo sono convinto, sa, questo anche in casa magari uno non necessariamente magari... ha sempre il tempo, no, molte cose da fare, però non è questo, è che davvero vogliamo fare una cosa che sia utile, non che crei un ulteriore problema. Allora, l'utilità è il concetto semplice, recuperiamo l'evasione, anziché aumentare il trasferimento a RAI, garantiamo a RAI la certezza del gettito attuale, ma redistribuiamo a chi ha pagato finora l'evasione che recuperiamo. Quindi diciamo non è che alla RAI andranno più soldi per recuperare del canone. No. Questo è chiarissimo. Sottosegretario Giacomelli, le chiedo invece che ne pensa del fatto che il CDA ha fatto ricorso contro il governo per questi 150 milioni, so che siete molto arrabbiati, insomma, è un CDA che... Più che arrabbiati siamo un po' meravigliati. Nel senso che... Perché non si fa ricorso contro l'azionista, dice? No, questo se ci sono i motivi si può anche fare, ma esattamente nel giorno in cui il direttore generale va nel CDA per dire guardate, l'operazione che era stata immaginata, il contributo di 150 milioni per aiutare le famiglie, in cambio della privatizzazione di una parte di Rai Way, ha dato un ottimo risultato, Rai Way in borsa ha fatto un grande risultato, ben superiore ai 150 milioni, cioè non c'è danno di nessun tipo. Beh, proprio nel momento in cui il direttore generale, che è il primo interessato, va a dire questo, non si capisce molto bene il senso del ricorso, ecco, francamente. Ma è vero, leggevo dai giornali, credo, la stampa, che il governo sarebbe intenzionato addirittura ad azzerare i vertici della RAI. No, questo non è vero. A parte che scadranno nel 2015 a metà... Scadranno a maggio 2015, ma non è questo il senso nell'intenzione. Il punto è che si può fare ricorso, si può fare qualunque cosa, si decida, però... Bisogna tenere presente il contesto. Non lo so se la modalità per il contributo dei 150 milioni famose è stata certamente eccezionale, però il senso era quello di intervenire per una situazione generale del paese di difficoltà. Ora Rai, mi pare, insomma, dovrebbe in qualche modo capire che il mondo Rai che non si vive in un'isola, ma si vive dentro un paese, e quindi nel momento in cui si tiene indenne l'azienda dal danno con l'operazione di Rai Way, francamente non è un po' incomprensibile. È vero che puntate anche alla nuova governance della Rai, per esempio non ci sarà più il direttore generale ma una sorta di super manager e 5 consiglieri di amministrazione. Diciamo, è vero che puntiamo a modificare la governance, lo faremo però non con un atto, con un decreto, un atto di governo, ma con un percorso parlamentare e quindi con una discussione aperta. Sì. Diciamo, la nostra idea è rendere Rai molto più simile a un'azienda normale di quello che è oggi, e quindi con l'identificazione di responsabilità di gestione, di soggetti che hanno il potere e ne rispondono, di amministrare al meglio un'azienda normale. Due cose le chiedo ancora. Ha visto la dimissionaria Luisa Todini del CDA della RAI, dice ci sono giornalisti RAI che amano stare seduti su queste sedie per esercitare il potere. Lei... Senta, io appartengo anche alla famigerata categoria dei giornalisti, per l'appunto. Non tocca a me dir male della mia casta. Della mia casta, vabbè, un po' casta lo è, però allora le chiedo questo. Roberto, è vero, ma confermo. Roberto... Diciamo, mi limito a dire questo, quando si parla del rapporto malsano, ed è vero, della politica con il mondo dell'informazione della RAI, diciamo è un rapporto più univoco, ecco, non c'è una ricerca solo da una parte. Sì. E l'ultima domanda è questa: nei giorni scorsi avevamo ospite Roberto Fico, presidente di Commissione Vigilanza, che dice io voglio da tempo pubblicare tutte le consulenze esterne in RAI, ma c'è un contratto di servizio che giace nel cassetto, nel suo cassetto, nel sottosegretario Giacomelli, da mesi, e voglio fare un appello perché lo firmi a lui, alla presidente Tarantola, questo contratto di servizio. Quando lo firmerà? No, io lo firmo anche oggi, non è questo il problema, la procedura è questa, il contratto di servizio ridefinisce bene gli obblighi del concessionario di servizio pubblico, in questo caso la RAI. Ora, io capisco che si può far tutto, però non è che contemporaneamente si può aumentare gli obblighi di RAI, anche giustamente lei pensi ad aumentare le sottotitolazioni dei programmi per una maggior fruizione, ampliare una serie di obblighi, quindi porre nuovi oneri a carico di RAI e nel frattempo continuare, diciamo, a diminuire, come c'era, come nell'ipotesi precedente, il corrispettivo che diamo, perché altrimenti in termini di azienda il sistema non regge. La firma è una firma bilaterale, sì. E quindi affidata a un ragionamento con RAI. Cioè, per la verità la mia intenzione è quella, e la nostra intenzione, insomma, il Presidente ne ha parlato altre volte, è quella di anticipare il rinnovo della convenzione al prossimo anno per ridefinire complessivamente il tema del servizio pubblico, che non riguarda solo questa questione di trasparenza su cui peraltro la RAI adempia ai suoi obblighi, ma riguarda proprio la riforma di un servizio pubblico che è immobile da troppi anni, sì, e che va reso più moderno. La questione però è sapere quando queste consulenze esterne verranno pubblicate. C'è una legge in teoria che dovrebbe renderle pubbliche da anni, ma non viene disattesa. No, guardi, c'è una legge che i dati vengono trasmessi al Ministero dell'Economia e resi fruibili sul sito, e questa è una legge che RAI rispetta. Lì c'è una battaglia comune di Fico e Brunetta che riguarda l'esplicitazione dei singoli emolumenti per ciascuno dei professionisti di RAI, interni o esterni. Su questo si è già pronunciata l'autorità, che dice che quando un'azienda agisce in regime di concorrenza non può essere tenuta oltre un certo limite a un fatto che la indebolisce in termini di concorrenza. Quindi... Allora la legge dice si forniscono i dati in modo aggregato o per tipologia al Ministero, e su questo la RAI adempie correttamente al suo obbligo. E il Ministero non li rende l'obbligo? Ministero dell'Economia, sì. Però anche qui non ci sono grandi misteri. Il punto, io non so che cosa il Presidente Fico immagina di trovare, il punto vero non è questo. A mio avviso la vera, non voglio dire lo spreco, ma la vera mancata potenzialità di RAI è che per esempio c'è un ritardo nel valorizzare la convergenza con la rete, c'è semmai una molteplicità di reti e canali non sempre con un'identità ben definita, c'è una mancata potenzialità delle trasmissioni di livello internazionale che valorizzino il potenziale del nostro paese, c'è una serie di moltiplicazioni di redazioni, informazioni, cioè ci sono una serie di realtà immobili da troppo tempo che determinano, a mio avviso, la mancata utilizzazione di tutta la potenzialità di RAI. È su questo che noi vogliamo che RAI si scrolli dall'immobilismo. Intanto io, sottosegretario, la ringrazio, grazie per essere stato qui, forza Milan come sempre. E... questo è un colpo basso perché sono nel finale. Vabbè, buona giornata. Antonello Giacomelli, grazie sottosegretario allo sviluppo economico con delega alle telecomunicazioni. Dunque l'obiettivo, il progetto è molto chiaro: mettere da pagare il canone della RAI in bolletta elettrica a partire da gennaio, con un emendamento al Senato alla legge di stabilità. 24 mattino. Allora, il canone in bolletta. Molti ascoltatori sono arrabbiati. Stefano da Milano, buongiorno, che c'è? Dica. Pronto? Stefano? Non la sento. Fabio da Siracusa, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, ascolti, io velocemente vorrei dire una cosa. Primo, la RAI io non la guardo, non ho motivo di guardarla, non so perché la dovrei guardare. Vabbè, no, ma è una scelta, guardi, le spiego. Allora, le fiction che fanno sono ridicole, allora sono meglio quelle di Sky, Mediaset, eccetera. La Formula 1 non la trasmettono più, tutta. La Coppa del Mondo non però, la Però Fabio, mi scusi, ci hai detto tante volte, mille volte, che la legge prevede che il canone è pagato per il possesso della TV. Cioè, che lei guardi la RAI o no. Cioè, a me mi sta bene. O si cambia, o si cambia, o si cambia la legge, oppure... Ma sta benissimo questa cosa. Io a casa lo pago, non la vedo, la RAI, non la vedo. Però contribuisco al canone RAI. Quello che non capisco è perché lo debba pagare anche nella mia attività. Cioè, io ho un'attività, ho dei collaboratori. Se loro si guardano la televisione sul computer invece di lavorare, io li caccio. Quindi cioè, non c'è proprio motivo di vedere questa. Vabbè, invece il canone in bolletta, cioè per pagare meno, cioè contrastare l'evasione e quindi pagare meno, che ne pensi? Ma voi pagate, allora, voi parlate di evasione. Io capisco che chi a casa non paghi il canone debba essere perseguito. E a me questo mi sta e bene. E sono tanti. La bolletta di casa, sulla bolletta di casa, questa cosa mi sta pure bene, ma sulla bolletta di un'attività commerciale, solo perché io ho un collegamento internet, un computer con cui lavoro, per lei contrasta. Però Fabio, molti ascoltatori, molti italiani la pensano così, e avrà anche le sue ragioni. Sulla questione della bolletta invece della casa, lei dice è giusto contrastare l'evasione, per molti non è così. Augusto da Pisa, buongiorno Augusto. Buongiorno, salve. Senta, io invece, allora innanzitutto complimenti per la trasmissione, mi dispiace solo che lei sia milanista. Se ci sono cose peggiori ma anche migliori, dica. Allora, no, io invece non sono d'accordo neanche con l'ascoltatore precedente, perché io non riesco proprio a capire perché dobbiamo proprio pagare questa imposta, perché innanzitutto io direi che è un'imposta, perché una tassa vuol dire che io pago per ottenere un servizio. C'è perché c'è una legge, che piaccia o no, e va pagata perché c'è una legge. Sì, ma è un'imposta, perché io la pago ma non ho nessun servizio da parte dello Stato, innanzitutto. Poi non capisco perché devo pagare poi alla fine i partiti, perché quelli lì... insomma, che piaccia in teoria o no, il servizio sarebbe amici. Il servizio pubblico della RAI, poi si può discutere se faccia più servizio pubblico o no, però in teoria paga quello, anche il servizio pubblico della RAI. Io pago il servizio pubblico ma non ottengo nulla, cioè si figuri che ci sono anche le pubblicità. Allora io vorrei capire i soldi che pagano le pubblicità dove vanno, cioè la RAI è così male organizzata che non solo ha bisogno delle pubblicità come fa Mediaset, ma ha anche bisogno del che noi paghiamo tutti del canone. Quindi lei vorrebbe, va bene, ma toglietemi la pubblicità, potrebbe essere un cambiamento, allora, uno scambio alla pari. Anche perché, Milan, io allora l'ultima volta, perché io sentivo Berro, mi pare, l'altro giorno che diceva innanzitutto la mettiamo, poi appena recuperiamo un po' di evasione abbassiamo per tutti. Allora, l'ultima volta che è stato detto mettiamo una tassa, poi appena però finiamo... scusi, ha sentito, cioè il sottosegretario è stato chiaro, cioè la mettiamo in bolletta elettrica, così contrastiamo l'evasione, e si dovrebbe pagare su una cifra attorno ai 70 euro da gennaio, non 113, cioè questo è il progetto, Sì, ho quindi capito, però se va in porto tra un mese lo vedremo, si pagherà 70 euro. Sì, ma la tassa sa, Milan, si sa quando viene messa, non si sa mai quando viene tolta. Vabbè, lei è un po' scettica. Augusto, lei che squadra tiene? Io Juventus, condoglianze. Va bene, grazie Augusto comunque per essere stato con noi. Allora, dopo il traffico, intanto lo saluto, c'è con noi il sindaco di Livorno, Filippo Nogarin. Sindaco, buongiorno, ci eravamo sentiti subito dopo l'elezione, buongiorno. Buongiorno. Dopo il traffico, tra un minuto sono da lei per capire sei mesi dopo come va, e anche però la notizia che ci ha incuriosito, tra poco. I centri ottici Green Vision ti aspettano per il controllo gratuito della tua efficienza visiva. Greenvision.it vi presenta Strade in diretta. 46 minuti, una buona giornata di nuovo dalla redazione di Strade in diretta. Il traffico intenso come di consueto a quest'ora attorno a tutte le principali aree urbane. A Roma, sul grande raccordo anulare, vi segnalo code per un incidente tra Casilina e Tor Bella Monaca sulla carreggiata esterna. Sulla 24 Roma-L'Aquila Teramo si rallenta per un incidente tra Valle del Salto e l'innesto per la 25 Roma-Pescara in direzione della capitale. code di 2 chilometri per lavori sulla 22 del Brennero tra Campo Gagliano e Carpi verso il Brennero. Proseguendo poi nella stessa direzione si incontrano altri 2 chilometri di coda, sempre per un cantiere fra Trento Nord e San Michele all'Adige. Infine attenzione, massima prudenza per la nebbia in banchi che riduce ancora la visibilità sulle zone di pianura del nord e in alcune zone delle valli del centro-sud. È tutto, torniamo ad aggiornarvi tra circa un'ora. 24 mattino. Eccoci qui con il sindaco di Livorno, Filippo Nogarin, del Movimento 5 Stelle. Allora sindaco, intanto le faccio una domanda a livello, insomma, visto anche le elezioni, tutti discutono, anche se coinvolge due regioni che non sono la sua regione, insomma la Toscana. Però alcuni giornali titolano il Movimento 5 Stelle sprofonda ma non lo ammettono. Siete preoccupati? Lei è preoccupato come esponente di questo movimento per quello che è successo domenica? Io sono preoccupato non per il Movimento 5 Stelle, sono preoccupato per questa nazione. L'astensionismo è un dato veramente ormai inequivocabile, questa è una disaffezione alla partecipazione politica e questo è l'elemento attorno al quale fare un'analisi politica che è assolutamente grave. Su questo tra l'altro astensionismo voi avete sempre puntato a dire insomma votate noi perché finalmente possiamo dare una risposta alla politica e quindi vi sentite in qualche modo anche un po' spiazzati? No, noi non abbiamo detto votate noi abbiamo detto sempre andate a votare, qualsiasi sia la vostra idea, ma andate a votare perché la partecipazione è molto importante. Beh, però è legittimo dire votate il Movimento 5 Stelle come reazione alla politica fino a questo momento. In questo caso invece c'è stato un forte astensionismo, cioè forse siete rimasti un po' spiazzati anche voi, cioè i cittadini proprio arrivano al non credere più a nessuno, molti che sono stati lontani dalle urne. Sicuramente da questo punto di vista una critica ce la dobbiamo fare, ma probabilmente quello che non si riesce a trasmettere è che il Movimento 5 Stelle non è soltanto un voto di reazione o di protesta, ma e la dimostrazione è esattamente nella misura in cui abbiamo proposto tantissime cose anche a livello di governo, ma sistematicamente vengono strumentalizzate. Uno dei problemi, ritengo, della politica attuale è semplicemente quello che per appartenenza non si permette alle buone idee di venire a galla. Sì. Questa è una cosa veramente molto grave. Lei per esempio in 6 mesi, cioè è complicato governare un comune, eh? Un comune poi anche importante, abbastanza grande, non un comune piccolino. Livorno è la terza città della Toscana, la 21ª d'Italia, quindi direi che è un comune molto importante. Beh, è sicuramente un esercizio complesso, un esercizio di grande lentezza, cioè il problema è che la pubblica amministrazione per cambiare direzione ha bisogno veramente di perseveranza e pazienza in ogni singolo dettaglio. La macchina comunale è composta da 1200 persone, per cui è chiaro che ognuna con il suo credo deve semplicemente rispondere a quello che è un indirizzo politico che è legittimo, ma talvolta si trovano anche delle forme di resistenza, è normale nella natura umana. Non è facile governare. Senta, sindaco Nogarin, ci ha colpito, l'abbiamo chiamata soprattutto per questo, una decisione della Giunta. La Giunta, mi pare di poter dire, ha deciso di querelare per una vignetta pubblicata dal Tirreno e dalla Nazione, una vignetta nella quale ci sono due persone, come fa la satira, ma sono riconoscibili, pare, lei e un suo assessore, in pratica mascherati da rapinatori intenti a rubare. Come fa la satira? Perché avete deciso di querelare? Addirittura si querela la satira? Sì, le spiego, in realtà non si querela la satira. Lì la satira è ben più che accetta, cioè il Movimento 5 Stelle nasce da Beppe Grillo che, per dire, ha fatto della satira l'elemento cardine del suo percorso professionale. Appunto. Beh, qui però la cosa è differente, cioè qui si va davanti alla calunnia, nel senso che si va a dire addirittura che due persone come il sindaco e come l'assessore vanno con questo fare da furfanti a rubare la casa comunale e all'esatto contrario di quello che normalmente avviene. Giusto per l'occasione che mi date, cioè sia chiaro che io ad esempio personalmente non ho mai chiesto un euro di rimborso, per cui è chiaro che davanti a una posizione come quella della vignetta, che va a distorcere ancora una volta completamente quella che è la verità, non si poteva che reagire in un modo così forte. E cosa avete già identificato una cifra, quello che chiederete? No, ma non è, questo non è il punto, cioè il punto è voler richiamare l'attenzione da parte dei media in modo tale da poter affrontare questa questione. Spesso e volentieri si spengono davanti a queste situazioni che sono assolutamente del tutto, secondo me, inutili, quando poi dopo rispetto ai problemi veri, rispetto alle questioni che sono il mantenimento di impegni presi, assolutamente non se ne fa menzione. Questo certo, faccio un esempio pratico. Noi avevamo detto in campagna elettorale che avremmo ridotto dell'ulteriore 10% il compenso degli amministratori. Questo a dimostrazione di quanto non sia il compenso l'elemento attorno al quale ci muoviamo come convinzione di governo. Ecco, rispetto a questo 10%, rispetto al fatto che ognuno di noi ha versato su un conto di banca etica, nessuno ha detto niente. Invece dice escono le vignette in cui veniamo rappresentati, ecco, come... Esattamente, e questo è il paradosso. Però lei dice non è satira e calunnia, ma sa che prima avevamo Vincino ai nostri microfoni, lo chiamo spesso alle 6.30, Vincino, grande vignettista, dice, ma insomma, uno che fa politica, ditelo al sindaco Nogarin, si deve aspettare questo, 10 vignette ma sì, uguali, ma insomma... Sì, ma il sindaco Nogarin queste cose le accetta, ci ride per primo. E ma però è avete querelato che... in questo caso. Beh, abbiamo querelato, però vedete che voi alla fine mi date l'opportunità di dire che non solo non abbiamo preso mai un euro di rimborso, ma abbiamo addirittura fatto anche qualcosa come il devolvere il 10% su un conto di banca etica per portare avanti ancora qualcosa di positivo, cosa che se non c'era questa situazione non sarebbe venuto fuori. Ma voi adesso... Questo è l'esempio di come purtroppo funzionano talvolta i media. Cioè, si è dovuto passare attraverso una vignetta, una querela, per poi... Ma la querela, voglio dire, l'avete stabilita in giunta? Avete fatto una delibera di giunta? La querela l'abbiamo stabilita in giunta perché siccome si va a parlare del comune, del sindaco, certamente, e quindi è chiaro ed è che... una strada senza ritorno, cioè non è che magari... Non è una strada senza ritorno, è chiaro, noi abbiamo già invitato gli autori della vignetta a un confronto pubblico che permetta di chiarirsi in merito a queste cose, e questa è l'occasione, però vedete bene che se questa è la strada, semplicemente noi non abbiamo fatto nient'altro che richiamare l'attenzione su aspetti che sono... L'avete un po' spaventati, ma la ritirerete, dai sindaco, prenda questa di fronte a una, non so, una richiesta di scudo, non lo so, un confronto. Se ci rideremo sopra tutti insieme, volentieri, cioè non è certo questo il percorso che ci vuol portare a essere i cattivi della situazione. Vogliamo soltanto che sia fatta chiarezza, perché è giusto che sia così. Per concludere, la beffa sì. Ci sta, noi assolutamente figurati. È da Toscano, dai, lo sa. Ma che, insomma, vernacoliere. Ma c'è il vernacoliere, lei querela. Mi faccia, per concludere, sindaco, ma è vero che lei un mese fa agli spazzini, che so che sono molto arrabbiati, c'è una questione in ballo, ma non abbiamo tempo qui per affrontarla, ha detto anch'io guadagno meno da sindaco di quanto ero ingegnere, cioè ho perso con la politica, insomma. Beh, diciamo che anche questo è stato uno degli elementi che vedete vengono assolutamente distorti, non sono state le mie parole queste, in ogni caso io è chiaro che ho avuto un percorso che non è sicuramente attorno al denaro che gira per potersi poi mettere a disposizione di una città. Fare il sindaco in questo momento storico è veramente, come vi dicevo prima, molto complicato. Per me è da pazzi. E richiede... Sì, beh, in qualche modo effettivamente mi rendo conto che un po' lo è, ma il punto è che richiede un tale impegno totalizzante anche della propria vita privata, dell'annullarsi completamente anche nel tempo libero, che credetemi, cioè, questa cosa o la si fa con cuore, con trasporto, perché si crede veramente nel voler andare a cambiare qualcosa, sì. Oppure un po' da pazzi. No, vabbè, sindaco, perché devo chiudere altrimenti sforo, ma la ringrazio. È stato molto chiaro e ci ha spiegato il tutto di questa vicenda. Era il sindaco di Livorno, Filippo Nogarin, del Movimento 5 Stelle. Grazie per essere stato con noi e ringrazio Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli in redazione, Peter Bescapè in regia. Mandateci le vostre mail 24mattino@radio24.it se ci ascoltate dall'estero e noi vi richiameremo. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. 24 mattino.